cartellone di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, con il flauto magico in versione speciale suonato dall'orchestra di Piazza Vittorio diamo il benvenuto ai radioascoltatori di Radio 24 al nuovo programma Cartellone, che si occuperà di spettacoli, teatro, eventi, mostre, cultura e quant'altro. Accompagnerà il vostro weekend e non solo, e le note che ci accompagnano sono quelle dell'apertura della stagione del Teatro Olimpico di Roma, dove dal 23 al 26 settembre ci sarà appunto l'orchestra di Piazza Vittorio con il flauto magico. E allora noi siamo andati a curiosare nella stagione del Teatro Olimpico di Roma, da sempre caratterizzato per essere poliedrico, per ospitare musica, danza, ma anche teatro, cabaret. Direttore artistico è Lucia Montefoschi. Buongiorno Lucia Montefoschi. Buongiorno. Allora, cosa ci riserva il cartellone di quest'anno? Dunque, prima di tutto avete detto che siamo un teatro grande, avete ragione, il nostro è un teatro grande perché ha moltissimi posti e una programmazione proprio molto molto varia e quindi un'attività poliedrica. Diciamo che noi siamo anche il teatro nel quale ci sono varie proposte e vari ospiti d'eccezione. Uno è l'Accademia Filarmonica, che ha una sua stagione che svolge qua, e l'altra è Roma Europa Festival, che quest'anno porta tre spettacoli suoi. Flauto Magico, del quale lei parlava, è appunto il primo dei tre spettacoli di Roma Europa Festival, che è una realtà romana molto importante e apre la nostra stagione. Dopodiché abbiamo moltissimi comici, moltissimi one man show, spettacoli venuti da New York come Avenue Q. Un attimo la fermo, perché lei ha detto one man show. Vogliamo sentire un pezzettino di un one man show, Lucia? Sentiamo un attimo Daniele Luttazzi, che sarà da voi con Va dove ti porta il clito. La volgarità è il pretesto principe con cui i tromboni in tutte le epoche hanno cercato di tappare la bocca alla satira. Si parva Licet, anche del Boccaccio dicevano che era volgare, e anche lui difendeva la sua arte, come me in questo momento. La verità è che la satira non è volgare, è esplicita. La satira usa come tecnica la riduzione al corporeo, alle esigenze fisiologiche primarie, mangiare, bere, urinare, defecare, scopare. Lo fa per sovvertire le gerarchie costituite. Daniele Luttazzi, sempre un po' irriverente. Poi ci sono state molte polemiche con Susanna Tamaro per questo spettacolo, soprattutto per il titolo, Lucia. Sì, in effetti ha avuto una serie di polemiche, addirittura delle code, diciamo, di tipo giudiziario, però in realtà è uno spettacolo in cui lui prende in giro, diciamo, tutto un certo sentimentalismo melodrammatico, e che quindi è uno spettacolo che, al di là del rifare il verso a un romanzo, dice poi delle cose differenti. Poi ci sono anche dei musical. Io mi ricordo l'anno scorso avete fatto Bollywood, quest'anno fate Cenerentola. Quest'anno facciamo Cenerentola, è una ripresa, è un musical delizioso. Massimo Romeo Piparo è un regista veramente fantastico, che riesce a fare delle cose particolarmente belle e interessanti, naturalmente avendo come testo Cenerentola sarà anche più facile per lui. E poi andiamo sul classico con un balletto che ci fa sempre sognare, lo Schiaccianoci. Il balletto di Roma con Andrea Laroche, siete emozionati perché insomma è uno spettacolo comunque classico che viene presentato in un teatro come il vostro, molto alternativo, Lucia? Sì, è anche un teatro in cui la danza ha un grande spazio e quindi è giusto dare spazio anche a dei titoli tradizionali. In realtà questo è una coreografia moderna, perché è una coreografia di Mario Piazza, è un balletto moderno, è una versione moderna ed è dedicata alla dimensione magica dell'infanzia. Poi, sempre per la danza, voi ospitate comunque ogni anno, oramai è un appuntamento fisso, i Momix, quindi nel nuovo spettacolo in Botanica. Esatto. Abbiamo quest'anno il titolo nuovo per Roma, che è Botanica. È uno spettacolo appena messo su, molto particolare, come sempre gli spettacoli dei Momix, e il tema dominante è la fauna, la flora, diciamo il nostro mondo, e sarà sicuramente uno spettacolo interessantissimo, perché insomma, l'intenzione dello spettacolo è anche quello di permettere alle persone di fermarsi a vedere la bellezza e le meraviglie di un mondo che è da preservare. Quindi è una cosa molto particolare, come sempre tutto quello che fanno i Momix, e i Momix sono forse uno dei complessi più interessanti che ci sono al mondo. E poi andiamo a marzo, dove c'è di nuovo un assolo di un personaggio televisivo, anche questa volta Neri Marcore. Secondo me gli italiani sono cattolici e laici, ma anche ai più laici piace la benedizione del Papa, non si sa mai. Secondo me gli italiani sono un po' confusi e poco aggiornati perché non leggono i giornali, figuriamoci se li leggessero. Secondo me gli italiani sono molto più intelligenti degli svizzeri, ma se si guarda al reddito medio pro capite della Svizzera viene il sospetto che forse sarebbe meglio essere un po' più scemi. Un certo signor G, questo è lo spettacolo che porterà all'Olimpico Neri Marcore, quindi un altro assolo, Lucia. È un'altra storia, in realtà non è completamente solo, perché in palcoscenico ci saranno anche due pianisti. È uno spettacolo in cui c'è molta musica e reinterpreta e rivisita Giorgio Gaber. Giorgio Gaber è stato un maestro del teatro e non soltanto uno che ha scritto canzoni. Insomma, poi ci sarà anche Dixplay con Joel e Dix, poi L'Inferno, un calendario molto molto ricco che parte appunto dal 23 settembre per finire al 25 aprile. Insomma, abbiamo visto che c'è questo bellissimo cartellone, abbiamo scelto il Teatro Olimpico a Roma, ma non per irriverenza nei confronti degli altri teatri, semplicemente perché il Teatro Olimpico racchiude in sé, come abbiamo detto, tutte le forme di rappresentazione teatrale, dalla prosa alla danza, dalla musica al cabaret, dai monologhi magari invece alle commedie. Allora ringraziamo Lucia Montefoschi, ricordiamo quindi che dal 23 settembre fino al 25 aprile gli spettacoli iniziano, ovviamente, Lucia, alle ore? Alcuni alle 20:30, altri alle 21. Un ricco calendario, si inizia il 23 settembre con il flauto magico, sì. Ore 21. Cartellone. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del Tg1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta da New York, vedete le torri gemelle del Twin Towers, a quanto pare questa mattina erano da poco. Era l'11 settembre 2001, momenti drammatici, come ci ha ricordato la cronaca del Tg1, anche Radio 24 era collegata con New York, e oggi però qui a Cartellone, proprio per commemorare l'11 settembre, abbiamo con noi la dottoressa Federica Volla, responsabile del NYC and Company, cioè dell'ente del turismo di New York, proprio per parlarci di un'iniziativa che riguarda il Ground Zero, il Memorial Preview Site. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Settimana scorsa, durante una conferenza stampa tenuta dal sindaco e dal presidente del Memorial and Museum, Joe Daniels, si è aperto questo 9/11 Memorial Preview Site. È un luogo dove i visitatori da ora in poi potranno raccogliere tutte le informazioni riguardo sia ai tragici ricordi, ai tragici momenti dell'11 settembre, ma anche la costruzione in tempo reale di questo memorial e museum dedicato alle oltre 3.000 vittime dell'11 settembre. Dell'attentato dell'11 settembre, sì. Ricordiamo un attentato in cui tutte e due le torri gemelle crollarono, adesso c'è Ground Zero, ci sono tanti progetti per questo Ground Zero, ma dottoressa Volla, quindi a parte questo preview site, che cosa possono vedere gli italiani che vengono a New York in visita? È vero che è stata riaperta addirittura la Statua della Libertà? Sì, quest'anno è stata riaperta dopo un relativamente lungo restauro la Statua della Libertà, ma non è solo, New York è sempre una fucina di novità, ogni mese c'è sempre qualcosa. Quest'anno in più ci sono stati una grande quantità di anniversari importanti, i 400 anni della scoperta da parte di Hudson, di New York stessa, di New quindi. York, sì, quindi New York compie 400 anni, i 50 anni del Guggenheim Museum celebrato in tutto il mondo, i 50 anni del Lincoln Center, i 125 anni del Metropolitan Opera House, che è una delle grandi istituzioni culturali e musicali della città, e poi anche ad esempio cose importanti e curiose di cui la città va orgogliosa, il recupero di questa High Line, che era una ferrovia degli anni 30, ormai in disuso, e anziché distruggerla è stato invece creato ed è in via di ultimazione questo parco sopraelevato dove i newyorkesi possono passeggiare sui tetti di New York, e il parco sarà lungo oltre 2 chilometri ed è stato ricavato appunto un parco, una zona di svago in un punto particolare importante della città, che è il Meatpacking District, che è tutta quella zona a sud di Manhattan che sta vivendo un momento di grande ricostruzione, di grande riscoperta. Ci sono gli hotel, i boutique hotel, dove ci sono grandi gallerie d'arte e una grande fucina di attività. Senta, professoressa Volla, ma si riuscirà quindi ad arrivare anche alla fiaccola oppure alla corona della famosa Statua della Libertà? Quindi, perché era il mio sogno da bambina, però si riesce solo ad andare a Ellis Island a vedere il bellissimo museo, però questa Statua della Libertà l'ho sempre vista da lontano. È stata riaperta. Quindi finalmente, perché si va al museo di Ellis Island e quindi si può andare anche alla Statua della Libertà. E sentirci un po' come Daryl Hannah in Una sirena a Manhattan. Poi lei ci parlava dei 50 anni del Guggenheim Museum, quindi sì. È importantissimo non solo per le opere che ci sono, perché il Guggenheim Museum è un capolavoro di architettura moderna. Sì, certo, Frank Lloyd Wright, che tra l'altro è su tutte le prime pagine dei giornali e di cultura eccetera, perché era un grande genio dell'architettura, un carattere impossibile e un grande genio. Poi abbiamo, come ci ha detto, la riscoperta dei 400 anni di New York, che sarà celebrata in qualche modo? Tutto questo anno 2009 è cadenzato da concerti anche ad accesso gratuito, da varie attività in tutta la città proprio per celebrare questi 400 anni. Di gratuito ci sarà il 13 settembre il concerto Broadway on Broadway, che è il concerto di apertura della stagione degli spettacoli di Broadway, ed è un concerto gratuito, per cui è normalmente gettonatissimo ed è una grande inaugurazione. Insomma, lei ci sta dicendo che tra abbiamo sentito anche il Metropolitan che mette in scena la nostra magnifica lirica, Broadway, eccetera, da l'11 settembre del 2001, molto tempo è passato, New York ha completamente riaperto tutti i battenti nella sua vivacità e soprattutto ha dimenticato in parte quello che è stata quella tragedia. Sì, direi che non l'ha dimenticata perché è sempre viva nei cuori di tutti, e il Ground Zero è un'esperienza di grande emozione, per cui sia per i visitatori sia per i locali che di tanto in tanto passano da quelle parti. E quindi l'America è sempre molto orgogliosa di commemorare i propri caduti. Però l'America e New York in particolare ha questo spirito così straordinario, adrenalinico di ricostruirsi, e devo dire che la città è da qualche anno che è in magnifica forma e tantissime cose sono state ricostruite, ad esempio anche per l'ospitalità sono 46 alberghi totalmente nuovi che sono stati costruiti a Manhattan e nei 5 distretti e negli altri 4 distretti. Voglio ricordare che New York non è solo Manhattan o Midtown Manhattan, che è l'isolone, il cuore della città, ma sono importanti e sempre più importanti e più attraenti Brooklyn, il Queens, il Bronx e naturalmente Staten Island. Ma come va invece il fatto che adesso si espandeva verso Harlem la città, insomma praticamente i palazzi, i bei palazzi di Harlem abbandonati e fatiscenti venivano ripuliti per riportarli all'antico splendore, però poi questo faceva sì che Manhattan cessasse di esistere. Esiste ancora questo mangiare territorio ad Harlem? No, intanto Harlem è sull'isola di Manhattan, per sì, cui no, ecco, fa parte della città sempre di più, è sempre parte integrante. Tra l'altro ha fatto bene a menzionare che non è un distretto ma è un quartiere della città. Harlem quest'anno ha compiuto i suoi 50 anni, il suo simbolo più importante che è l'Apollo Theater, che ha compiuto 50 anni quest'anno, e Harlem è ormai diventata una destinazione anche turistica, oltre che culturale, perché sempre più visitatori vanno a sentire i gospel della domenica mattina, che sono veri e propri spettacoli, quindi Harlem è un altro dei posti pulsanti. Che non è stata ancora ripulita del tutto, oppure insomma si temeva, no, che questa cercare sempre nuovi spazi all'interno di Manhattan potesse far finire proprio Harlem, invece no. No, devo dire che a Harlem ancora si sente questa sua vibrante creatività afroamericana. Però quello che è stato, quello che lei utilizza la parola ripulita, in realtà sono state recuperate delle aree molto importanti e le case che avevano che erano ormai fatiscenti, però è vivibile. 30 anni fa Harlem era considerata una zona off limits, adesso si va di giorno, di sera, a tutte le ore. Insomma, senza nessun problema, e fa parte della città, quindi è stata recuperata in questo senso e in senso molto positivo. Invece gli altri spazi sono quelli classici del Village, quelli magari quelli un po' particolari di Soho, no? Artistoidi. Sì, ma per esempio anche a sud ci tengo uno dei musei che attira molta attenzione sia dal punto di vista del design che dei contenuti, è il New Museum, che è stato costruito nella Bowery. Ora, anni fa, sempre una ventina d'anni fa, fino a qualche anno fa, la Bowery era considerato il dormitorio dei senza tetto di New York, e adesso è un centro culturale. Abbiamo sentito che c'è molto da vedere, come al solito, a New York. Noi ringraziamo la dottoressa Federica Volla, che è stata con noi, responsabile del NYC Company, ente del turismo di New York, e abbiamo sentito, c'è questa possibilità di vedere questo preview site sul 9/11, sull'11 settembre, dove erano un tempo le Torri Gemelle e dove sorgerà anche un museo, come abbiamo sentito, ma ci sono tantissime altre cose da fare, tra le quali visitare la famosissima Statua della Libertà. Grazie, dottoressa Volla. Grazie mille. Se posso ricordare, il nostro website è nycgo.com. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. Cartellone. Bene ragazzi, mettetecela tutta. Primo round. Non statene lì impalato, Elliot. Dentro ognuno di noi c'è un talento speciale che aspetta di emergere. Il difficile è trovarlo. Beh, chiunque di noi voleva fare la ballerina da piccola, ma fare il ballerino è un po' diverso. Però Billy Elliot ce l'ha insegnato con uno splendido film del 2000 e uno splendido musical che è ancora in scena a Londra. Buongiorno Michela Daghini da Londra. Buongiorno a te Betta e agli ascoltatori di Cartellone. Infatti benvenuta alla nuova trasmissione. Allora Michela, che cosa succede a Londra? Ancora Billy Elliot riesce a galvanizzare il pubblico? Sì, anche perché questi ragazzini sono davvero sorprendenti. Il musical è il pluripremiato musical prodotto da Elton John, che ha composto anche le musiche, quindi anche le musiche sono bellissime, ed è basato proprio sull'omonimo film di Stephen Daldry, che è anche regista del musical, il film di cui abbiamo appena sentito un passaggio. La storia la sapete, quella di Billy, che nonostante fosse quasi analfabeta diventa uno dei più grandi ballerini del mondo, e lui cerca insomma in tutti i modi infatti di realizzare il suo sogno di diventare un grande ballerino. Billy ma dovrà affrontare tutta una serie di lotte, anche di cocenti delusioni per arrivare a quello che è il suo obiettivo. Da quando ha debuttato qui a Londra al Victoria Palace nel 2005 è stato nominato il musical per 9 Laurence Olivier Awards, ne ha vinti 4, e l'incredibile successo ha fatto sì che il musical poi approdasse dappertutto, quindi c'è anche in Australia, a Broadway e a New York. Tra l'altro ha vinto 10 Tony Awards, era stato subito definito dal Telegraph il miglior musical inglese quando ha debuttato a Londra, anche se credo adesso stia un po' facendo lotta, è stato forse superato da Oliver, di cui tra l'altro abbiamo già parlato. Sì, appunto, ricordiamo che in Summertime abbiamo parlato di Oliver, questa mega produzione che poi è stata messa in scena dal capolavoro di Oliver Twist. Michela, perché Billy Elliot è considerato come il miglior musical inglese? Che cosa ha tanto di speciale? Dunque, di speciale sicuramente il talento dei ragazzini, che sono stati ricercati con un casting estenuante, hanno detto, perché la legge inglese per i bambini prevede che non possono lavorare più di 3 giorni a settimana e comunque non oltre 6 mesi, quindi la produzione ha dovuto allestire 3 compagnie di giovani, ci sono 15 minori in scena, ognuna capitanata da un diverso Billy Elliot, i ragazzini devono saper ballare, recitare, cantare, fare numeri acrobatici, devono essere coperti da una speciale assicurazione, proprio perché è una performance che richiede davvero talento un po' su tutti i fronti. Un altro motivo di successo potrebbe essere quello che tra l'altro ricordava uno dei ragazzini che interpreta Billy, l'ho sentito raccontare, gli chiedevano: ma secondo te perché è così bello questo musical? Lui dice: è fantastico perché il messaggio è che devi fare ciò che vuoi, prova a fare ciò che vuoi, almeno provaci, e non passare la tua vita in ufficio scontento col pensiero di ciò che avresti voluto fare della tua vita, fallo e basta. E questo detto da questi bambini dodicenni che sanno fare praticamente tutto a dei livelli altissimi è certamente un altro, credo, motivo di grande successo di questa produzione. E poi naturalmente le musiche di Elton John, che sono già una garanzia in partenza, no? E allora sentiamo un brano di questo Billy Elliot a teatro. It's like the best music playing in your ear, and I'm listening and I'm listening, and then I disappear, and then I feel a change, like a fire deep inside, something best in me wide open, impossible to hide, and suddenly I'm flying. Qui sentiamo proprio queste voci di bambini che cantano, Michela. Un musical ambientato anche in un momento drammatico per la Gran Bretagna, ricordiamo, era il terribile sciopero dei minatori sotto il governo Thatcher, che iniziò nel marzo del 1984 per concludersi nel marzo del 1985 senza nessun accordo. Uno sciopero che segnò proprio una debacle della classe operaia della Gran Bretagna, ma soprattutto c'è un fatto nel musical che viene molto bene fuori, è il contrasto tra le classi sociali, perché Billy è figlio di minatori. Sì, è vero, il contesto in effetti, come tu dici, è turbolento, il contesto storico, che è quello dei famosi scioperi dei minatori inglesi, e la classe sociale, lui arriva dai bassi fondi, appunto da queste classi meno agiate, e questo rende probabilmente ancora più forte il messaggio, perché lui parte veramente da zero, senza nessuna facilità, oltretutto in un contesto anche di mentalità un po', se vogliamo, rispetto ad oggi o rispetto magari alla grande città, meno aperto. Infatti tutti gli dicono: la danza è per una donna e non è per un uomo, e se per un uomo, l'uomo è gay. E allora lui viene osteggiato anche per questa cosa dell'omosessualità. Infatti Elton John, quando poi sono stati consegnati i premi per il musical, appunto, ha fatto davvero incetta, come dicevamo. Lui dice: io mi riconosco moltissimo in questa storia, perché io così ho vissuto, con mille difficoltà, osteggiato, con il problema dell'omosessualità, del sentirsi diversi e di volere comunque rincorrere il proprio sogno a tutti i costi. E quindi, visto che Billy Elliot poi diventa un ballerino famosissimo in tutto il mondo, anche Elton John ogni volta dice si commuove a rivedere, appunto, che in fondo a volte i sogni si avverano. Soprattutto ricordiamo quel momento del film, che penso si veda anche a teatro, bellissimo, in cui c'è lui che fa la sua prova di ammissione a Londra e viene sussurrato a uno degli esaminatori che appunto Billy Elliot è figlio di un minatore. Insomma, lì si vede anche un po' il contrasto, no? Anche quando lui va nello spogliatoio e vede tutti questi ragazzi che si preparano alla prova, figli un po' della buona borghesia. Sì, tra l'altro sostenutissimi, anzi, come sappiamo, spesso spinti anche quasi forzatamente dalla famiglia, no? Dai genitori, che magari più che i ragazzini tengono al successo, all'arrivo di questi ballerini, diciamo così, ancora in erba. Invece lui praticamente non è sostenuto quasi da nessuno, se non soprattutto da questa maestra di danza favolosa, che fa un po' le veci, se vogliamo, anche della mamma, perché Billy Elliot l'ha persa quando era piccolino, e lei decide appunto di prenderlo sotto la sua ala, perché ne intuisce subito il talento e quindi gli dà queste lezioni private. Ma sicuramente, come dici tu, i ragazzi che concorrono con lui avevano ben altra preparazione alle spalle, quindi non giocavano certamente alla pari, ecco. Anche perché Billy viene dal Galles, se non erro, Billy Elliot proprio nella finzione del musical. E la cosa importante, che è un po' buffa, che nel 2007 hanno riaperto le miniere che la Thatcher aveva chiuso, perché negli anni 80 la Lady di Ferro le cancellò, e adesso invece si è scoperto che il carbone è un combustibile conveniente e pulito, e quindi è stata ribaltata la decisione dell'ex Lady di Ferro. Però rimane il musical, Michela, capito? Quindi l'arte permane, poi le decisioni dei politici no. Esatto, la signora Thatcher è ancora molto contestata adesso, a distanza di tanto tempo. Qualcuno dice la crisi economica in parte l'ha voluta lei, qualcuno dice no, lei aveva previsto invece che ci sarebbero state tutta una serie di problemi. In realtà chi ha ragione non lo so, lo vedremo forse lo vedremo. No, detto una cosa inesatta, erano i minatori del nord-est Inghilterra, quelli di Billy Elliot, ma insomma erano tutti i minatori, invece anche i gallesi, quelli che erano in sciopero nel 1984. Ma ritorniamo sulla scena con un altro brano. And I will have missed you growing, and I'll have missed you crying, and I'll have missed you laugh. Missed your stomping and your shouting. Un'altra cosa, come accennavamo prima, Michela, che l'orientamento sessuale di Billy non viene mai esplicitato nel film, anche se poi c'è l'ultima scena in cui si vede magari il suo amico che aveva fatto outing, no? Che è accanto al padre, oppure si vede il fatto che lui danza questo lago dei cigni al maschile. Ecco, in un momento in Italia molto molto importante, in cui purtroppo ci sono delle aggressioni quest'estate contro i gay, quanto questo film e questo musical, che ricordiamo è in scena a Londra, può farci capire una realtà complessa come quella del mondo della danza, dove molto spesso l'omosessualità è abbastanza presente, soprattutto nei ballerini? Sì, è verissimo quello che dici. Certamente Londra in particolare, che poi si dice Londra è una città mondo e non fa dire l'Inghilterra o dire Londra non è la stessa cosa. Per quanto riguarda Londra, certamente l'omosessualità è ormai più che accettata. Londra avanti davvero anni luce rispetto all'Italia. Ricordo che Londra è una delle comunità gay più grandi al mondo, ce ne sono moltissimi, tra l'altro sono molto, quasi tutti, direi il 90% hanno fatto outing, sono spesso nei ruoli anche chiave della BBC, sono intellettuali importanti, sono negli ambiti creativi, nella moda, nel design, ma anche nell'ambito intellettuale proprio, quello altissimo, per cui non hanno nessunissimo problema di accettazione, di autoaffermazione. È proprio un'altra dimensione, un'altra cultura, e quindi per loro magari è divertente quando i due ragazzini giocano e l'amico, appunto come dicevi tu, infatti l'amico si veste da donna e naturalmente gioca molto su questa cosa, però per gli inglesi è assolutamente normalissimo e scontato, è così da anni. Loro hanno anche le unioni di fatto, si possono sposare, era stato deciso da Blair, è una legge che è stata fatta durante il governo Blair, e insomma tutto è assolutamente nella norma, è accettato come normalità. Insomma, Michela, ci vuoi ricordare allora qual è il teatro che ospita Billy Elliot per gli italiani che magari desiderano trascorrere un weekend a Londra e andare a vedere questo musical? Il teatro qui è il Victoria Palace, che è un bellissimo teatro piuttosto vecchio. I biglietti naturalmente li trovate online, li trovate al teatro, oppure lo ricordo sempre nei numerosi punti vendita che ci sono in Leicester Square, dove a ridosso della data che vi interessa trovate i biglietti scontatissimi, ed è anche più semplice trovarli che non online o nel teatro, quindi è la soluzione forse che suggerisco più caldamente. Allora, tutti a vedere Billy Elliot. Grazie Michela. Cartellone. E adesso andiamo in Alto Adige, dove soffia un vento Ma contemporaneo, sì. Transart si è aperta ieri e finirà il 9 di ottobre. Allora, andiamo a vedere che cosa ci presenta questa bellissima rassegna di musica anche un po' sperimentale. Edward Demetz è il presidente di Transart. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, Transart è un festival interdisciplinare che si dedica chiaramente maggior parte alla musica, ma non solo. Abbiamo di tutto, abbiamo arte, abbiamo film, abbiamo installazioni, abbiamo video, insomma tutte le discipline di espressione artistica contemporanea, proprio per questo anche il festival si chiama Transart. E si svolge a Bolzano? Si svolge non solo a Bolzano, Bolzano e zona, dunque siamo a Fortezza, poi a Bressanone, Bolzano, a Piano e a Merano, questi sono i luoghi dove ci saranno i vari spettacoli. Quindi un mese di buona musica, ma non solo, improvvisazione elettronica, vedo, ci sono poi performance multisensoriale, addirittura poi una performance linguistica basata sull'emissione, la sovrapposizione di sillabe, parole e vocalizzi. Con speech, c'è addirittura anche dei film. Poi abbiamo l'ensemble Klagenforum Wien e Transart che propongono un omaggio al compositore Niccolò Castiglioni. Insomma, spaziate. Sì, abbiamo avuto ieri l'apertura con la Internazionale Ensemble Moderne Académie di Francoforte. Si tratta di una delle orchestre più importanti a livello mondiale per la musica contemporanea, alle quali si è aggregata anche una accademia dove giovani talenti e studenti possono acquisire esperienze e imparare direttamente dai membri dell'orchestra. Questo è stato ieri, musica accompagnata ad un film, a dei film vorrei dire, fra cui il film famosissimo Un chien andalou, che tutti conoscono, con appunto musica live suonata da questa Accademia Internazionale dell'Ensemble Moderne di Francoforte. Poi questa sera nella chiesa parrocchiale di Merano ci sarà l'Orchestra Sperimentale de Instrumentos Nativos con Sergio Prudenzio. Si tratta di un'orchestra sperimentale boliviana che usa solamente strumenti tradizionali della musica tradizionale andina, però suonando musica sperimentale. Dunque un esperimento questo veramente a cavallo fra due mondi sonori molto diversi da proporre questa sera a Bolzano. Ecco Edward, per chi volesse invece saperne di più, perché insomma il calendario degli eventi è lungo, www.transart.it. Noi ringraziamo Edward Demetz, presidente di Transart 2009, ricordiamo gli appuntamenti che ci sono tutte le sere o alle 20:30 oppure anche alle 16 alle volte e si svolgono in Alto Adige a Bolzano, a Piano, ma anche a Bressanone. Grazie Edward. Grazie anche da parte mia. E sulle note del Sirtaki noi iniziamo a sognare l'Oriente, iniziamo a sognare la Grecia, iniziamo a spostarci un po' a Oriente. Ma prima andiamo a Rovigo, perché proprio giovedì 10, ma prosegue oggi e anche domani, si è aperto un festival internazionale di musica e cultura popolare che è arrivato all'ottava edizione. Ande, Bali e Cante, sulla Via della Seta, da Venezia a Istanbul, l'Oriente. Roberto Tombesi, direttore artistico, buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, volete far scoprire quelle che sono le sonorità dell'Oriente? Boh, ci proviamo, almeno andiamo verso Istanbul, porta dell'Oriente insieme a Venezia e facciamo sentire al festival questo inizio della Via della Seta, perché come sapete la Via della Seta è lunghissima e noi ne affrontiamo per ora solo un pezzettino. Un pezzettino, ma perché Ande, Bali e Cante? Noi ci eravamo detti, vabbè, forse un festival di musica andina, era all'ovest, perché invece? Che cosa vuol dire Ande? E questo titolo del festival è anche il titolo della Bibbia, potremmo dire, dell'etnomusicologia veneta, che è un libro che fece Antonio Cornoldi nel 1968, dedicata alle musiche popolari del Veneto e particolarmente al Polesine, che si chiamava appunto così, Ande, Bali e Cante del Veneto. Ande sta per andamenti, filastrocche, un modo di dire rodigino. Balli e cante, si spiegano da solo, balli, danze e canzoni. Voi avete aperto giovedì con immagini dalla Cina di 3 giornalisti italiani e avete anche fatto delle musiche di Sakamoto e di Ali Zadeh. Allora, vogliamo sentire magari uno spicchio di Sakamoto? Poi avete proseguito venerdì 11 settembre con delle trame sonore della musica di Béla Bartók, Roberto, e per poi fare anche appunto un ensemble Maraghi Italia-Iran addirittura, qualcosa dalla Bulgaria che farete stasera. E proprio in questo caso dobbiamo parlare con uno degli artisti che si cimenterà sul palco. Giovanni De Zorzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, l'ensemble Maraghi Italia-Iran, quindi insomma è abbastanza importante come unione. Vi rifate anche ai centri sufi di Costantinopoli, leggo nella vostra scheda. Siete 4 e un tamburo, un flauto, una voce e un liuto a manico corto. Che cos'è? E prendete il liuto a manico corto, ci sfugge un po'. È un oud, si chiama oud, e oud in arabo vuol dire legno, letteralmente, ed è questo liuto a manico corto che poi, risalendo per Andalusia, è diventato al-oud, così come lo dicevano gli arabi, al-liud, al-lut in Provenza, leuto in Dante e poi liuto, quindi è il nonno, l'antenato del liuto. Quindi insomma è una musica veramente che vuole unire la nostra cultura con quella lì ottomana, oppure è una musica... Decisamente sì, perché le due culture non erano divise, esisteva un concetto abbastanza di interculturalità, soprattutto sulla Via della Seta e soprattutto nel simbolo che è il nome del nostro gruppo, che è Maraghi, che era un compositore, musicista e trattatista, etnomusicologo, che muore nel 1435 e che nei suoi libri, Jami al-Alhan, descrive, pensa un po', allo stesso modo la ghironda, che è uno strumento medievale, provenzale, europeo, diciamo così, e la cetra su tavola a ponticelli mobili, Jatgan, che è della Mongolia. Quindi veramente un uomo sulla Via della Seta. Noi suoniamo le sue composizioni, di Abdulkader Maraghi, in una sezione, e nell'altra sezione suoniamo brani della tradizione sufi ottomana. Quindi insomma un modo di scoprire quello che è l'Oriente nella tradizione sufi e poi nella tradizione iraniana. Stasera lo ricordiamo alle 21, l'appuntamento è molto importante a Rovigo, a Ande, Bali e Cante. Roberto Tombesi, dove sono gli appuntamenti? Lo vogliamo ricordare, all'auditorium, giusto? Sì, il festival è da 8 anni, perché è da 8 anni che esiste, è spalmato al Censer, l'auditorio del Censer, ex zuccherificio, poi nel centro storico e poi nel Museo degli Olivetani, Museo dei Grandi Fiumi, dove ci sono delle mostre, CD, e avvengono delle performance sia aperitivi musicali sia il notturno che sarà questa sera, o meglio domani mattina alle 2 di notte. Alle 2 di mattina, insomma. Insomma, c'è molto da ascoltare, ma ho visto anche che c'è anche un po', si prende dalla tradizione popolare, addirittura c'è l'ensemble 900 che fa un'orchestra di ocarine. Ci ricordiamo le ocarine, che erano quegli strumenti popolari? Allora ascoltiamo un pochino che cosa siamo riusciti a rintracciare di questo vecchio strumento. E con il suono dell'ocarina noi salutiamo Roberto Tombesi e Giovanni De Zorzi. Un'occasione quella di andare a sentire l'ensemble Maraghi stasera, sabato 12 settembre alle ore 21 all'auditorium di Rovigo per Ande, Bali e Cante. Io ringrazio poi Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Un buon sabato e un buon weekend a tutti.